Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Siete in compagnia di Pietro e della Francesca. E oggi abbiamo anche un ospite che ci ha raggiunto, che non è mai venuta in radio. Marta, ti salutiamo, che non parlerà però ci guarderà attentamente. Oggi parliamo di un'inchiesta, un processo che sta avendo luogo qua a Bologna e che ahimè non è tanto seguito dalle cronache giornalistiche, ma dovrebbe in realtà riguardarci tutti, perché è il più grande processo di mafia, di 'ndrangheta in particolare, che si sia visto in Emilia Romagna. In generale uno dei più grandi al nord, direi. Sì, infatti coinvolge Bologna in primo luogo, tutta l'Emilia, ma non solo, in realtà anche è un'operazione che si è svolta in diverse regioni, 12 regioni, e addirittura arriva fino in Europa, in Inghilterra. L'inchiesta si chiama Black Monkey perché Black Monkey erano chiamate le schedine che venivano inserite nelle slot machine. Il punto centrale dell'inchiesta sono proprio appunto il gioco d'azzardo e l'evasione del fisco tramite il gioco d'azzardo. Esatto, e ricordiamo che appunto a essere imputati sono ben 23 persone, di cui diciamo che i due principali sono Nicola Femia, detto Rocco, che è il presunto capo clan di un clan che si muoveva tra Gioiosa Ionica e Ravenna, e poi c'è Guido Torello, che è un faciliere piemontese, che appunto entrambi coinvolti nel gioco d'azzardo e nello smercio illegale legato a questo appunto. E sì, il processo si sta tenendo a Bologna perché diciamo che l'evento clou del processo è un pestaggio che è avvenuto a Bologna, anzi a Imola meglio, e quindi in base a questa ragione la giurisdizione è stata quella di Bologna. Sì, e siamo solo al primo grado, però è un processo che è iniziato già a marzo, le cui udienze si sono seguite in questi mesi. La penultima udienza a cui abbiamo assistito ha anche testimoniato il giornalista, costituitosi anche parte civile, Giovanni Tizian. Le parti civile, tra l'altro, di questo processo sono tantissime. Infatti c'è l'ordine dei giornalisti, Giovanni Tizian, Libera, la regione Emilia Romagna, il comune di Modena, SOS Impresa. Si è costituito addirittura la parte civile il sistema Gioca Italia. Quindi appunto sono tantissimi quelli che si sono costituiti parte civile, e nella penultima udienza appunto ha avuto luogo la testimonianza di Giovanni Tizian, che è stato un po' il protagonista in realtà di questo processo, perché è stato direttamente minacciato dal clan di Femia, come si potrà anche sentire in un'intercettazione. Io direi che almeno la cosa che a me ha colpito di più mentre vedevo le udienze era un po' vedere la reticenza dei testimoni. Poi vi invitiamo comunque, se volete davvero approfondire la cosa, secondo me andate su Facebook, c'è la pagina proprio Black Monkey gestita dal presidio di Libera Carpi, e davvero spiega la cronologia di tutto il processo. Però ecco, la cosa che ha colpito è vedere questi testimoni che al processo raccontano queste storie di ordinaria amministrazione, si può dire, in aziende del gioco d'azzardo che collaboravano con Femia, che hanno subito intimidazioni, hanno subito pestaggi, eccetera, e appunto invece di denunciare molto spesso si è sentito dire ma Femia è un bravo ragazzo, molte dichiarazioni erano seguite da dei non ricordo, e quindi c'è sempre quest'aria un po' di omertà, esatto, che regna sovrana. Facciamo piccola pausa canzone e poi entriamo un po' nel vivo di questo processo. La canzone che vogliamo lanciare è niente po' di meno che Man with the X degli Atomic Fireballs. You remind me of a man. What man? Oh, the man with the power. What power? Say the power of voodoo. Voodoo. Yeah, you do. Do what? Oh, remind me of a man. Save us from the man with the hex. Save us from his evil curse. It's gonna get bad, yeah, it's gonna get worse. Oh, wink 'em, dink 'em, anonymous wreck. Save us from the man with the hex. With hairy legs, with heavy feet, he cracks the pavement as he creeps. We'll be right back. Save us from the mail the hex. Save us from the mail the hex. Save us from the mail the hex. Save us, save us. Bene, allora rieccoci ritrovati e adesso facciamo subito sentire l'intercettazione di cui parlavamo prima, che è avvenuta il 23 gennaio 2013. I due che parlano sono l'imprenditore Torello e Rocco Femia. Esatto, e parlando appunto commentano gli articoli che Giovanni Tizian, che ricordiamo per chi non lo sappia è un giornalista d'inchiesta di origini calabresi, e lui tra l'altro è vittima di, cioè un familiare di vittima di mafia, perché suo padre Giuseppe Tizian, che lavorava come funzionario di banca in Calabria, è stato ucciso, e tra l'altro l'azienda di suo nonno era stata pure messa a fuoco in Calabria, quindi è dovuto scappare dalla sua terra, ma i guai non sono finiti purtroppo, perché decidendo di proseguire il percorso di onestà della famiglia, in realtà si trova da vivere sotto scorta da quando appunto sono venute fuori queste intercettazioni. Esemplificativo anche come appunto la mafia in realtà l'abbia seguito a nord, e che quindi appunto si siano riproposte le medesime strategie che già avvenivano a sud. Vi facciamo sentire. C'è un articolo sulla Gazzetta di Modena, no? Sempre per quanto riguarda giochi e non giochi, di napoletane, siciliane. E mezza pagina parla di me questo giornalista, sono già la seconda volta in 2 anni. È un esponente dell'Andrangheta nel settore dei giochi. Vabbè, mi dici come si chiama il giornale, il nominativo, lo facciamo smettere immediatamente. Sono in 2 anni, l'ha fatto 2 volte, hai capito? Benissimo. Questa detta volta non è bella, perché non sono cose belle, uno che si rompe il culo dalla mattina alla sera. No, ma ci penso io, ce l'hai la copia? Sì, sì. Bene, come si chiama il giornale? È la Gazzetta di Modena. Ci penso io. È praticamente di sabato. Un attimo, e poi ti dirò, no, c'è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando, ti dirò chi è, questo giornalista, se ci arriviamo, o la smetto di sparare in bocca e finita lì. Perché è una persona che mi sta dando una mano. Vedi che glielo faccio andare in bocca. Ti spiego, sappi una cosa, che ci sono due poteri oggi in Italia, la magistratura e i giornali. Lo so, il giornale è peggio della magistratura. Bravo. Avete sentito che addirittura si lamentano dei poteri forti della stampa e della magistratura, incredibile. Anche i mafiosi hanno le loro lamentele in questo senso. Le loro rimostranze. Vabbè, bisogna ascoltare tutti. Certo, in fondo. Certo. Però ecco, avete sentito come, ecco, da allora Giovanni Tizian vive sotto scorta, e tra l'altro l'ha riferito proprio anche all'udienza di cui vi parlava prima Francesca, cioè fare il giornalista d'inchiesta vivendo con due dietro sotto scorta, immaginate quanto i collaboratori confidenti giornalistici siano ben propensi a parlare. Insomma, davvero sta facendo una vita durissima. Orribile, speriamo, ecco, gli facciamo gli auguri che possa presto tornare alla normalità. Ma ecco, dicevamo, come è partito questo processo? Questo processo prende il via l'11 gennaio 2011, dopo che un immigrato marocchino porta una denuncia alla Guardia di Finanza. Lui afferma di essere stato rapito e minacciato dalla mafia calabrese, e lui gli stessi dice per metterlo a posto. Quindi questo è poi l'atto, diciamo, che fa scaturire le indagini, che poi porta il PM Caleca a formulare l'imputazione. E ricordiamo appunto che quasi tutta l'attività dei Femia era legata al gioco d'azzardo, e come si avvalevano dei profitti illeciti, perché sia manomettevano le macchine segnalando la vittoria all'ente, perché tutte le macchine da gioco, ricordiamo, sono controllate naturalmente. Esattamente, però senza pagarla poi al vincitore. Oppure... E quindi dichiaravano una vittoria non avvenuta. Oppure la vittoria di colui che aveva giocato era in realtà inferiore rispetto alla somma dichiarata, quindi marciavano sulla vittoria stessa. Esatto, ma tra l'altro appunto sentendo anche tutte le testimonianze, in realtà il processo come si comportavano, cioè molte volte aiutavano aziende in difficoltà del settore, prestavano soldi, quindi apparivano anche come dei buoni samaritani in un certo senso. E poi naturalmente gli si interessi... chiamavano anche usurai. Esatto, esatto, chiamiamoli pure usurai. Infatti poi gli interessi venivano richiesti e tante sono le storie di persone minacciate. Ma fra l'altro tra gli imputati ci siamo dimenticati di dire che comunque sono imputati anche molte persone, quali ingegneri, alcune forze dell'ordine, faccendieri, vabbè, naturalmente la 'ndrangheta naturalmente, e anche commercianti. Esatto, è un po' tutta quella che viene considerata la zona grigia tra la mafia, la criminalità organizzata e la società civile. Esattamente, questa è quella categoria che in genere si assolve, un po' per citare De André, ma in realtà è sempre coinvolta nel momento in cui non si schiera contro ma si presta all'attività mafiosa. Poi sono ricordiamoci che i mafiosi non sono tutti tecnici, non sono tutti esperti, hanno per forza bisogno di persone di tecnici che... esperti. Esattamente, quindi questo li naturalmente per forza di cose li porta a appoggiarsi su professionisti anche proprio. Esattamente. Allora, noi intanto vi facciamo l'invito a venire alle udienze, le prossime saranno una il 12 dicembre e una il 19 dicembre. Sono pubbliche, sono al Tribunale di Bologna e davvero, secondo noi è molto importante far sentire la nostra vicinanza come città a Giovanni Tizian e alla sua famiglia, che non stanno vivendo bene il processo, anche perché considerate che durante le udienze c'è lo stesso boss Femia che si siede di fianco agli altri, a Tizian stesso, oppure ci sono la madre che si siede vicino ai figli di Femia. Insomma, è una situazione davvero pesante, quindi se partecipiamo in tanti vi assicuro che diamo un segnale molto molto positivo. No, infatti è assolutamente importante partecipare, anche perché in ogni caso questo processo non è molto seguito dai media, e quindi una sensibilizzazione maggiore sicuramente di supporto alle persone vittime del gioco d'azzardo, e in primo luogo alla famiglia di Tizian. Tra l'altro direi che questo processo è la prova, se ne servissero ancora altre, perché è una cosa che ormai si dice da sempre, ma che la mafia c'è anche in Emilia Romagna, è una cosa che purtroppo tocca ripetere anche nel 2014, molti in questa regione continuano a negare o a rimanere nell'indifferenza, forse nell'ignoranza, a volte anche a mio avviso non un po' cercata, del fatto che dicono no, la mafia è sempre un fenomeno del sud. Nonostante abbiamo altri processi simili in Piemonte e in Lombardia, uno fra tutti viene in mente il processo Minotauro, che in Piemonte ha portato alla condanna di un sacco di 'ndranghetisti, e voglio dire, a quanto pare c'è bisogno anche delle sentenze nelle aule per dimostrare che la mafia, esatto, qua non è solo infiltrata, perché anche questa è un'altra cosa, ma c'è proprio un radicamento territoriale che non è un fenomeno di ieri, ma è un fenomeno che c'è da ormai 30-40 anni. E i rapporti che ha Femia, il potere che aveva lo stesso Femia e i contatti che aveva con anche esponenti delle forze dell'ordine ci fanno pensare che insomma anche qua la mafia, per quanto agisca magari più nel silenzio, più nell'ombra, continui a tessere rapporti e trame con la politica, con anche la politica e lo Stato in generale. Quindi anche perché comunque non in questo processo, però appunto il Minotauro che ricordavi tu è proprio un processo che è scaturito da scambi di voti politici, quindi propriamente appunto politico. E adesso facciamo parlare appunto una piemontese che ci introduce la canzone che seguirà. Ciao, sono Marta, sono un po' agitata perché sto lanciando la mia prima canzone in radio e mi stanno facendo dei video e delle foto perché è un momento epico. Comunque lancio Up in the Sky dei 77 Bombay Street. Up in the sky there is a village and the people there are blue. I believe it's true. Up in the sky people are high. Sing and there is no need for a king. Up in the sky nothing is insane, like a rocket driven plane you can fly above the rain. Up in the sky you just feel fine, there is no running out of time and you never cross the line. I never want to go into the blue. religion. There are no cars and no phones, and you cannot be controlled up in the sky. You just feel fine. There is no money making crime, but a lot of good wine. Consueto, abbiamo il nostro appuntamento buffet. Fra nel frattempo si è tramontata in margherita. Di cosa vi parliamo oggi? Allora, c'è un appuntamento il 10 dicembre alle 6:30 che a noi andremo, credo, quindi vogliamo condividere anche con voi. Se volete partecipare, secondo me è interessante. Cosa succede? Che all'Atelier Sì, che è un nuovo posto abbastanza figo che è aperto in via San Vitale, tipo in fondo, vicino alla porta, è un po' hipster, lo riconoscete da questo portone tutto colorato, però è molto carino, è appena aperto, gestisce questa associazione tutta nuova, è un posto molto tutto da scoprire, insomma. E c'era una presentazione, a nostro avviso, molto, molto, molto carina. Prego, Margherita. C'è la presentazione di un libro di memorie dei richiedenti asilo che si chiama Tutta la vita in un foglio, ed è questo il titolo di questo appuntamento. E poi ci sarà una proiezione molto interessante, di cui appunto vi parleremo, che è un documentario di Andrea Segre che si chiama Come il peso dell'acqua. Il titolo, che è molto evocativo, secondo le parole di Andrea Segre, vuole indicare l'acqua che pesa appunto sulle vite dei migranti che sono state lasciate morire nel Mediterraneo, ma anche l'acqua che pesa sulle nostre vite, nel senso che se non indagheremo la storia e i motivi di queste persone, ma se continueremo a vedere soltanto il problema degli sbarchi sulle nostre coste, lascerà un peso sulla nostra storia. Questo è un documentario che è stato commissionato da Rai 3 per la serata del 3 ottobre, occasione della distanza di un anno dalla strage di Lampedusa, che diciamo l'obiettivo era quello di andare un po' al di là del semplice resoconto mediatico sugli sbarchi, eccetera, per indagare anche le storie di viaggio e cercare anche di comprendere le motivazioni delle persone che partono da determinati luoghi per arrivare sulle nostre coste. E questo documentario incrocia teatro e reportage e vede la collaborazione di Marco Paolini, di Andrea Segre e di Giuseppe Battiston. E Giuseppe Battiston è appunto il protagonista che si interroga sul motivo per cui è spaventato da questi corpi che lui trova nel mare. E attraverso la sua voce noi percorreremo le storie di tre donne che seguiranno tre filoni del racconto, che sono appunto la memoria del viaggio, la traversa l'aereo del mare e la loro vita oggi dopo aver lasciato il loro paese d'origine. E queste tre donne, la prima mi proviene dal Ghana, che ha determinate tradizioni, quindi ha una tutta sua storia particolare, e il suo viaggio la porta in Italia, e lei rimane appunto in Italia e si prosegue poi la storia della sua vita a Castel Volturno. L'altra donna invece proviene dall'Eritrea, e quindi anche lei con altre proprie tradizioni dell'Africa orientale. E poi c'è il racconto di una donna siriana che invece ha intrapreso il suo viaggio tra il 2013 e il 2014, però resta in Italia soltanto 3 giorni per poi proseguire oltre. Quindi sono 3 storie tutte diverse che offriranno dei spunti per capire come, al di là di tutta la questione mediatica, al di là degli sforzi militari, politici, economici che sono preoccupati di ridurre gli sbarchi sulle nostre coste, è anche interessante trovare la nostra capacità di ascoltare e di capire le motivazioni e le scelte di chi ha iniziato questo viaggio. Parentesi, Andrea Sigra è un mio concittadino padovano, anche Battistone Veneto, quindi direi che le motivazioni campanilistiche ci sono tutte, almeno per me, per andare. Allora, ripetolando un po' gli appuntamenti di tutta questa puntata, abbiamo il 10 dicembre alle 6:30 all'Atelier Sì questo incontro, e vi ricordiamo di nuovo le udienze il 12 e il 19 dicembre. Mi raccomando, chiunque può venire anche solo a fare un salto, no, per stare un po' di più, però se volete davvero far sentire la vostra presenza, ma anche solo per informarvi, perché davvero hanno un valore educativo molto importante, venite, partecipate. Vi lasciamo con un pezzo dei Rumba de Bodas, dell'ultimo album che verrà presentato domani all'Estragon gratuitamente, domani sera, quindi ascoltateli e ci sentiamo alla prossima, ciao! Sweet Crazy Sunshine, Rumba de Bodas, buona giornata, ciao! In a river of disaster, of wonderful world. And she keeps drowning till I drop out liberty, without joy, simplicity. Prison of iron dreams that you never stand, that you never be. In a river of disaster, of wonderful world. And she keeps drowning till I drop out liberty, without joy, simplicity. The red of a blur. The white of a void back in the world. Run away, come my darling, from your trip, until you will form part of my dream. I cannot die, my sweet sunshine, grace lady of my dreams, of all my dreams. Die, my sweet sunshine, grace lady of my dreams, of all my dreams. Die, my sweet sunshine, grace lady of my dreams, of all my dreams. That you never stand, but she can be. Living in my body, tragic silent scream. Cause living has become a bad crime. Doing a rules about my mind. The truth of your desire, not so free. Open your heart, baby, so you can say. There is no reason to discover inside me. I live today, tomorrow, eternity. cannot die, my sweet sunshine.